obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, poi cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! Certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, a noi del referendum, di Radio Maria, del Vaticano, dei vegani, dei negri, degli immigrati, dei froci, non ce ne frega un cazzo, perché adesso arriva Donald Trump. Arriva Donald Trump e saranno cazzi amari per tutti. Non succede, perché non succede, non succede, perché non succede. Ma se succede, se succede, amico mio, forza Donald! Non succede, ma se succede, io intanto 5 euro su Donaldone li ho puntati. Ah, Gruciani, se vince Trump ti fa inchiappettare senza i 200.000 euro. Potrebbe essere un'idea. Attento che già una volta hai perso la scommessa su questo argomento. No, su questo non l'ho persa la scommessa. Su questo no, perché altrimenti sarei stato già deplorato. Attento. Avevo detto anche della bocciatura di mia figlia, no? Che ero disposto a barattare, ma su quello non posso influenzare però. Cioè, su quello non posso dire niente. Se quella è brava, pare che sia brava a scuola, che devo fare? Cioè, non è che posso influenzare. Ho detto che sarei disposto a barattare la vittoria di Trump con la bocciatura di un anno di mia figlia. Ma poverina, sì. Ma perché? No, ma tanto comunque è una cosa che non si può realizzare, nel senso che è molto brava a scuola. Ma anche ti avverto solo che è molto brava. Pensarla è una follia, anche ma solo no, pensarla, ma chi se ne frega. Che è una cosa ma vuoi mettere quattro anni di delirio, di divertimento, di gioie infinite? Ma è una disgrazia, sarebbe una disgrazia assoluta. Pensa che uno dei fondatori del Ku Klux Klan ha dato indicazioni di votare Trump. Ecco, io non potrei mai votare la stessa cosa che vota il fondatore del Ku Klux Klan. Vabbè, dai. Se dovesse vincere Trump negli Stati Uniti sarà lecito mettere le mani nel sedere delle ragazze per strada. Non è vero, ma non dire cazzate. Assolutamente ma questa sì, è una boiata che dici. Ma guarda che la dici grossa, è una cazzata. È una cazzata inaudita, dai, ha sdoganato totalmente un linguaggio, un modo di fare. Ma da quando osteria, mai? Ma che dici? Portandolo, speriamo che non lo porti ovviamente dentro la Casa Bianca. Ma c'è casa una bianca, cosa no. Incredibile. Speriamo di no, appunto, portando quel linguaggio nella campagna elettorale per la corsa grande alla White libertà, House. Grande libertà, dovesse vincere Trump sarà lecito stupendo degli Stati Uniti mettere le mani nel ma sedere delle donne ma per strada. Ma questa è una boiata, questo è il ma perché punto dici queste cazzate? Perché assurdo è così, ma perché sono di una volgarità inaudita, questo di un sessismo schifoso. Vabbè, di un razzismo. Abbiamo capito porta che non ti piace, si era già capito. No, dai, il mio è un commento anglosassone da giornalista terzo che non patteggia assolutamente per Hillary. Ah, Crucia, ti chiamo da New Jersey. Oggi non volevo votare, ma sono andato lo stesso e ho votato a Donald. È come se avessi votato tu. Siamo al top. Grazie fratello. Tanta gente ha votato come se io fossi lì. Non ce la faremo, amico mio. Non ce la faremo. Ma se succede. Mi auguro di no. Non ce la faremo. Succede, amico mio. Chi è questo? Allora, io voglio ricordare quello che è accaduto nei giorni scorsi ad Ancona. Così, un memento, una piccola memoria. Un anno di reclusione, pena sospesa, per omicidio colposo derivante da un eccesso colposo nell'uso dell'arma di servizio. È la condanna inflitta, con rito abbreviato, dal GUP di Ancona all'appuntato dei carabinieri, mettiamoci sull'attenti, Mirko Basconi. Caro Mirko, ti siamo molto vicini qui alla Zanzara, cioè almeno io, Parenzo no. Il 1 febbraio del 2015 il militare esplose alcuni colpi contro la vettura di tre ladri in fuga. Tre ladri in fuga in una contrada. Uno degli occupanti del SUV Mercedes, inseguito, si chiamava Korab Xeta, 24 anni, albanese, venne ferito a morte da un proiettile rimbalzato sull'asfalto e penetrato nell'1.8 posteriore. Gli avvocati faranno naturalmente appello. Condannato a un anno, ma non solo. Gli chiedono 2,5 milioni, più i soldi per gli avvocati. Questa è l'Italia, cioè. Tre ladri scappano, un carabiniere insegue, esplode quattro colpi sparati, uno per caso va a finire in testa a quello che muore, un anno al carabiniere. Questa è l'Italia, vabbè, ma se a voi sta bene così questo paese, se a te ti sta bene così, tieniti questo paese qui, dove un carabiniere per inseguire tre ladri spara dei colpi per fermarli, perché non li può fermare con le rose e con i fiori, come ti ha detto Feltri ieri, ma sparando uno dei colpi casualmente, tra l'altro, a me non me ne frega un cazzo, anche se non fosse stato casualmente. Io voglio un paese dove i ladri vengono inseguiti e un carabiniere spara ad altezza d'uomo, chiaro? Se lo ritiene necessario, se lo ritiene necessario, se lo ritiene necessario, puoi vivere in Texas. Se ti va, vai in Texas. Se lo ritiene necessario, lì, spari per strada. Ma no, quello che c'è, spari e poi per strada. Comincia a parlare così, we push the gun. Tu come fa Trump, the gun. Ma dai. Allora, c'è un prete che si chiama Don Alberto Vigorelli, che è un prete di Mariano Comense, qua vicino. Sì. Questo signore, questo prete, ha detto che o si è cristiani o si è con Salvini, si è Salvini in realtà. Sì, non è sbagliato, certo, questo. Cioè, secondo te è giusto? Ma mi pare, cioè, un prete mentre adesso recita, si può fare scandalo, no, che prete, è stato un prete. Allora, no, ma però, ragazzi miei, la dottrina cattolica mi pare poco compatibile con chi vuol prendere a calci nel sedere i migranti, affondare vero, le barche, ma è una stronzata, non accogliere. Dopodiché fate quel che volete, perché come ho detto, quella è un'altra azienda, non è la mia azienda. Ma che c'è? Però la Chiesa, nel senso che io non sono cattolico, quindi no. Però, ragazzi, mi pare difficile, come dire, no, tenere insieme la dottrina. Ma questa è una cazzata, un prete che durante l'omelia Francesco con i calci ai migranti. Allora, ragazzi, diciamo, Marcato, quel signor Marcato che va sempre alla quinta colonna, dove mi hanno invitato anche a me, peraltro, il venerdì. Quella quinta colonna è venerdì, quello di Belpietro. Dove ogni giorno qualunque cosa accade, migranti! Qualunque cosa succede, vince tre, qualunque roba accade, vabbè, allora, a Firenze. Ecco, mi pare incompatibile Marcato con Papa Francesco, ma anche vederli, se tu li vedi su Google, metti Marcato Lega Nord e Papa Francesco, li vedi proprio fisicamente. Ma questa parla mi di Salvini, pare totalmente incompatibile, appunto, stesso partito, mi pare totalmente, vabbè, incompatibile questo prete. Il lessico io di voglio, Francesco io voglio, con quello di Matteo, no, io voglio ricordare Salvini. Io voglio no, ricordare solo una, cioè tu dici il Vangelo secondo Matteo Salvini non può esistere, dici incompatibile. Esatto, il Vangelo, allora, però, secondo Matteo. Però aspetta, ti dico una cosa, questo prete che si chiama Don Alberto Vigorelli, durante l'omelia della domenica a Mariano Comense, cioè di fronte alla sua gregge, diciamo, si è espresso più o meno in questo modo, cioè o si è cristiani o si è con Salvini. Lei avrebbe detto che o si è cristiani oppure si sta con Salvini. Sì, l'ho detto. Dire o si è cristiani oppure si sta con Salvini è una frase abbastanza forte, effettivamente. Certo. Certo. E lei allora? Che c'ha le palle sto Vigorelli. E allora? No, vedete, non ha detto così, comunque. Allora, senti questa battaglia tra Cito e Trefiletti. Cioè, ormai Cito fa il fenomeno da baraccone nelle trasmissioni televisive. Cioè, deve difendere l'indifendibile. Siccome è stato condannato anche per associazione esterna in mafiosa, Cito combatte con Trefiletti, che gli dice: devi restituire tutti i soldi che hai preso dal Parlamento. Senti. Ma tu devi restituire i soldi, perché tu sei stato condannato per associazione mafiosa, hai capito? Vergogna! Lei ha rischiato. Restituisci i soldi! Restituisci i soldi! Lei è un cretino! Restituisci i soldi! dire queste cose quando io stavo là, soldi. Perché l'avrei fatto arrivare le scarpe in testa, soldi. Ha capito, lei e la sua amica soldi. Non ha mai lavorato, lei non ha mai lavorato, soldi. Dica quanto prende di pensione a questa gente euro. Che sta morendo di fame, ha capito, cretino, lei è un cretino. È il bello che Belpietro per un attimo ha solo provato a fare la finta di dire no, abbassate, poi ha lasciato fare naturalmente perché si insultavano. Cito e Trefiletti, l'ex ottimo sindaco Trefiletti. Di Taranto, e Trefiletti che gli diceva di restituire tutti i soldi. Sì, ottimo, il Trefilo, bravo, è stato bravissimo, grande battaglia. Lei è un cretino. Poi in genere è un moderato Trefiletti, una persona tranquilla. Ma insomma, io l'altro giorno l'ho incontrato in aeroporto, era furibondo, non so perché cosa, insultava tutti. Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità. E il traffico? Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei. 800 24 00 24, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top, siamo veramente al top. È un po' di tempo che non sentivo Ruffini. La tua oggi sei stato a Tagadà. La Panella, Tagadà, conduttrice, la signora Panella. Sì, l'ottima Panella, sì. La pensa come te sulle prostitute? Io veramente ormai sono circondato da un mondo che non mi appartiene più. Cioè, ci sono sempre più persone che la pensano. Cioè, la signora Panella, che dovrebbe essere una persona raziocinante, seria, non si può sostenere che bisogna punire severamente i clienti. Beh, c'ha ragione, perfettamente, ragione. Cioè, bisogna, signora Panella, Tiziana Panella. Dice che bisogna punire severamente i clienti riduce, delle prostitute. Così è una puttanata, così la, ma di quelle mondiali. Di e, c'è usare... gente, e c'è gente che presenta in Parlamento, fa perdere tempo al Parlamento e presenta disegni di legge per punire, addirittura mettere in carcere i clienti delle prostitute. Cioè, tu pensa dove siamo arrivati, Panella. Sì, comunque, io Panella. Sai che sono assolutamente d'accordo. Sì, lo so, per carità. Io penso che se si punissero i clienti, pensi come sono fatta. Io penso che se si punissero seriamente i clienti, il problema non ce l'avremmo. Però sì, certo, magari un punto di vista forse no, più femminile. Perché allora vietiamo l'alcol come ai tempi del maccartismo? Cioè vietiamo, non lo so, ma è incredibile che uno è come Parenzo. Beh, con la droga bisogna legalizzare, no, le carne vanno bene, le zoccole no. Ma c'è una cosa incredibile. L'alcol e la droga fanno male soprattutto a se stessi. Cioè se io mi voglio sfasciare... Ma alimentano il traffico lo stesso, non dire che è il principio dubbio, lo stesso, dai, senza su. Senza dubbio, ma allora... lì... c'è una, ma lì se io mi voglio sfasciare no, è un po' diverso, perché se io lì mi voglio sfasciare alimenti di alcol, le industrie che producono alcol, sì, cioè. Però mi devasto io nel mio corpo, lì c'è una devastazione psicologica, ma di alimenti, un mercato che fa nascere persone, cioè che fa che contribuisce alla, ma allora che la prostituzione l'alcolismo è un problema serio, e dunque tu contribuisci bevendo alcol, secondo la tua teoria, alla distruzione di molte però, persone. A parte che io sono la a favore della legalizzazione della prostituzione solo nella misura in cui c'è un controllo e c'è la volontarietà delle donne. Ad oggi questo non c'è, ergo vanno multati i clienti. Ma spedite mai a casa le foto delle, pubblicate sui giornali magari, no? Spedite a casa le foto degli sporcaccioni, sì, a casa, fatte nelle città se possibile dei mega manifesti con le quelli foto che vanno a puttane, tipo wanted, assolutamente sì, delle foto delle persone che va a prostitute. Queste tre cose insieme faranno sì che nel corso del tempo, in brevissimo tempo, vedrai che ma si diminuisce. Ma quando mai? La gente andrebbe a puttane lo stesso con un po' più di cautela, con un po' più di cautela, quando non ti preoccupare, metto la è uguale. Tua bella foto Giuseppe Cruciani, Salaria, e chi se ne frega, voglio vedere. Io lo dico che vado a puttane, sai che cazzo me ne frega. Quando uno entra a Roma c'è un po' di vado a puttane, l'ho sempre detto, vado a puttane. Ma non tutti parte che non è vero, hanno questa questa allora, voglia di pubblicizzarlo. Leggo oggi, da domani a venerdì ci sarà su Rai 2 una serie che è quella del commissario Rocco Schiavone, no? Interpretata da Marco Giallini. Sì. Allora, ragazzi, io non so se voi vi scandalizzate, io non mi scandalizzo, però mi fa un po' effetto, devo dirvi la verità. Il titolo che leggo sul giornale è questo: il vicequestore Giallini odia la neve e si fa le canne. Cioè, siamo in presenza di una serie televisiva, di una fiction, diciamo, le prime puntate su Rai 2, dunque sulla televisione di Stato, in cui c'è un vicequestore, ovviamente finto, un vicequestore che si fa le canne, che fuma marijuana. Vabbè, dico niente io, però è così, è così. Cioè, sulla televisione di Stato va in onda una serie in cui c'è un vicequestore la cui caratteristica, una delle caratteristiche principali è che, oltre a essere volgare, eccetera, eccetera, si fa le canne. Paolo da Mantova, vai. Paolo. Pronto? Dimmi, Paolo, dimmi. Pronto, mi senti? Sì. Salve. Dimmi, dimmi, Paolo. Io volevo dire una cosa. Stanno dicendo che qui vicino forse manderanno i rom. Dove? Sì, però cerca di parlare bene, senza l'auricolare, senza il viva voce. Dai, dimmi. A Borgo Virgilio dicono che stanno venendo i rom. Dove? Borgo Virgilio, vicino a Mantova. Borgo Virgilio, non lo so, non sono a conoscenza delle... telefoni a Quinta Colonna, glielo segnali a Quinta Colonna. Le installazioni dei si chiamano SOS Rom, anche Quinta Colonna, guarda, ovvero SOS Rom. Io vorrei dire una cosa, signor Parenzo, io sono un ex... Chiami Poletti, aspetta, guarda, fammi le sentire. Do il numero di Poletti, che è l'inviato, Paolo, di Quinta allora... Colonna, che è uno dei massimi esperti di migranti e di Rom. Dimmi. Se mi fa parlare, allora, io sono un cognato, un ex cognato di Mauro. Mauro di Mantova. Ah, addirittura, un parente di Paolo. Ma che bella famiglia. Ah, l'ex cognato, c'è la sorella, il fratello dell'ex moglie. No, ero fidanzato con la sorella, allora le spiego. Mauro, con la Mauro sorella non... di chi? Vabbè, non ci interessa, no, arriva... Mauro no, questo è importante. Le spiego, Mauro non era... Però scusi, Paolo, cosa adesso non abbiamo... la fenomenologia di Mauro Mantova. Fermo lì, voglio capire una cosa. Quella l'ha fatta Umberto Eco su Mike Buongiorno, non possiamo fare la fenomenologia di Mauro Mantova. No, volevo dire solamente una cosa, Mauro non era razzista. Sì, ma adesso non abbiamo tempo. Poi perché è c'è caduto da seggiolone e tutto. Dopo è cambiato. Ti richiamiamo, però che cosa ci vuoi dire sul campo rom? Spiegami. Ne volevo dire una cosa: che se stanno mettendo il campo rom, io divento razzista come mio cognato. E allora che succede? Che fai? È perché lei lo sa che mio cognato è stato violentato, perciò è diventato razzista. Questo è interessante, cioè Mauro da Mantova è stato violentato. Sì, è stato violentato da un palestinese ed un ebreo in un campo per la pace. Sì, vabbè, arrivederci. Paolo, dimmi la verità: che cosa vuoi fare con sto campo rom? E volevo diventare razzista come mio cognato. Vabbè, sei un imbecille, ti posso dire che sei un imbecille. È una famiglia degradata. Sei un cretino, sei una povera totale famiglia. Cretino. Sono un cretino, mi dici perché sono un cretino? Perché sei un totale perché cretino. Perché è parente di Mauro da Mantova. Allora ragione mio cognato quando diventa violento. Ma stai zitto, imbecille, dai. Sono in cima all'Empire State Building e non riesco a smettere di pensare alla Zanzara. Siamo al top. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Chi ascolta Zanzara voglia scompisciarsi e risate. Quando sogno un casellico senza nord voglio ridere, ridere, ridere. Perciò? Sì, buonasera, sono De Giovanni, chiamo dal primo piano, Price. Sì, mi dica. Purtroppo qua i cessi del primo piano sono lordati, fanno veramente schifo. Che nodo, scusa? E il primo piano, lo sa, c'è il cesso, quello prima di Radio 24 e poi c'è il cesso Price, insomma, no? Il lato solo 24 ore. Quelli maschili? Sì, sì, quelli maschili. Sì. Ed è, le dico, è roba da vomito, cioè ci sono delle incrostazioni luride. E io le dico anche che ho un sospetto chi sia a sporcare sti bagni in maniera così incivile. Sa quello che fa la trasmissione, come si chiama? Che ha sempre ho capito. Quello degli animali, sì, roba del genere, sì. Quello con i capelli unti, come si chiama? Cruciani. Ah, ecco, bravo, Cruciani, fa veramente vomitare. Ah, perché ha visto anche lei che... Sì, lui ogni tanto fa delle sceneggiate qui all'esterno, qui all'interno del sole. Lo vedo spesso che entra nei nostri cessi, sì. Mentre lui ci avrebbe il suo, quello di Radio 24, esatto. Due volte l'ho visto che è uscito e c'erano montagne di schifezze. Cioè, lui... Fai come i suoi. Com'è? Per i comodi suoi, diciamo. Insomma, non usa neanche la scopetta, fa schifo proprio. Vabbè, non ne posso più, che devo fare? Vabbè, adesso ha bisogno l'uomo delle pulizie, lo mando a pulire, poi vediamo di risolvere questa situazione. Grazie, è molto gentile. Adesso mando l'uomo a pulire, va bene? Grazie, arrivederci. Vabbè, scusa, ma come cazzo si permette questo qua di dire che faccio delle sceneggiate al sole 24 ore? È impazzito completamente. Quello che fa le sceneggiate con gli animali, ha detto, certo. Ma è una roba incredibile. Sì, ha ragione. È quello che fa le sceneggiate ogni tanto con gli animali. Ma quali sceneggiate, va? Pensa a fare il mestiere tuo là, la sicurezza. È roba pazzi, guarda. Poi non capisco chi è che fa il delatore. C'è qualcuno che fa il delazione. Guarda, è una roba incredibile. Allora, prima ho detto una cazzata perché volevo parlare di proibizionismo in generale in America, attaccando Parenzo che vuole il proibizionismo sulla prostituzione, punendo i clienti. Io ho detto maccartismo, che non c'entra un cazzo, stavo dicendo proibizionismo, maccartismo non c'entra nulla ovviamente con il proibizionismo degli alcolici, che fu negli anni 20, credo. Sì, proibizionismo. E non c'entra una mazza con maccartismo, ma succede, ragazzi. Qualcuno scrive, ignorante, un errore nella diretta. Quello era contro i comunisti. Esatto, diciamo. Nella diretta si fanno tante cazzate, si dicono tante cazzate e si possono commettere degli errori, capito? Imbecilli. Angelo da Napoli, vai Angelo. Buonasera Cruciani, buonasera Barenzo. Dimmi. Allora, per me io voglio intervenire per quel carabiniere che è stato... Sì. Io sono pronto, può essere un paradosso, però sono pronto a... bonificare 100 euro per concorrere le stesse processuali di questo carabiniere, e spero che il mio sia un gesto come esempio per tutti gli italiani. Questa che è una buona idea, è una buona che idea. Condividono perché io saranno mie suggestioni. Io vedo che quando ci sono delle gazzelle dei posti di blocco, alzano le sirene, accendono i lampeggianti, quasi. Sembra, sarà una mia opinione, ripeto. Allora sembra cosa? Sembra quasi che si evitano di avere guai, giustamente, perché noi viviamo in un paese... Allora Angela, però mi hai dato uno spunto, adesso vediamo nei prossimi giorni, eccetera. Si potrebbe fare una colletta, innanzitutto perché pare che questo carabiniere debba pagare le spese processuali nel frattempo. Vabbè, i 2 milioni e mezzo è un'altra cosa. In primo grado. Ho capito, è stato condannato in primo grado e dunque deve pagare le spese processuali. Io ritengo assurdo, fatemelo dire ancora una volta alle 19:24, che un carabiniere che spara contro un'auto rubata di ladri, lascia perdere se romeni, italiani, non mi interessa, in fuga, colpo che non arriva direttamente sulla testa del ladro, rimbalza per terra, colpisce uno che muore, questo prende un anno. Quattro colpi. Ha crivellato una macchina. Ma quale crivellato? Ma stai dicendo delle follie? È stato condannato in base al codice, perché ti hanno spiegato che giustamente i carabinieri e la polizia sono addestrati per mirare, sparare, per l'uso... come dire, controllato della forza. Ma cosa e c'entra? Ha sparato per fermare un'auto di ladri. Un'auto di ladri. È morto un signore. Ed è giusto dargli un anno. Ed è giusto dargli un anno. Ed è stato condannato soltanto. E dunque un tu anno. Trovi giusto? Ma di là, abbi coraggio di dire che trovi giusto. Ho detto soltanto un anno. Ah, soltanto. Ho detto, addirittura condannato poco. Cioè, dovrebbe essere contento. Vabbè, Vabbè. Beh, ritenersi fortunato del fatto che comunque una persona è morta. Dai. È morta una persona. Ho capito, amico mio, questo spese processuali gli chiedono 2 milioni. Se volete sparare a caso, potete trasferirvi in alcuni stati che per ora sono in mano ai repubblicani. Ma potete andare negli Stati Uniti. Non c'entra niente, dai. E in alcuni stati potete sparare liberamente. No, oppure potete trasferirvi tutti quanti in Arabia Saudita. Ma non c'entra lì, nulla. Ad esempio, potete, non puoi fare c'è anche il taglio di una mano, ad esempio, se volete. E quello ci può essere anche il taglio di una mano. Vabbè, Angelo, che dici tu? Angelo, che dici? Cosa dico? Dico che secondo me è un'offesa agli italiani per bene. Cioè, noi non possiamo condannare una persona che sta facendo il suo dovere. Ha ragione, Angelo. Sta facendo il suo ha dovere. Ha ragione, Angelo. Ha sparato contro i ladri, ragazzi. Diciamo la verità: ha sparato contro i ladri. Non mi pare che si sia messo col Kalashnikov, a sparare all'impazzata. Ha sparato 4 colpi. Stiamo questionando su 4 colpi. Ragazzi miei, non stiamo questionando su 4 colpi. Stiamo questionando su una norma prevista dal codice. Che è morto, e il ladro è morto. Come ha detto ieri Feltri, appartiene, come dire, agli inconvenienti del mestiere, ecco, di ladro. Il nostro codice è fatto un po' diversamente, per fortuna. Angelo, che volevi dire a Parenzo? Non ho capito. Io volevo dire che non ci dobbiamo lamentare poi se ci troviamo persone sempre in mezzo a strada che qua ammazzano per niente persone, cioè, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ciao Angelo, restiamo a Napoli. Fabio, oh, Francesco Latina, dai. Salve, buonasera. Volevo dire una cosa veloce, volevo parlare praticamente della prostituzione, allora... ovvero secondo me la prostituzione viene semplicemente solo sanzionata, ma non si fa nulla per prevenirla. Che bisogna fare per prevenirla, secondo te, scusami, sì. Francesco, è arrivato il fenomeno qui, dai. No, è arrivato Don Mazzi, è arrivato... No, nessun Don Mazzi, semplicemente... Basta evitare che ci siano delle situazioni di degrado. Ma che vuol dire? Ma il degrado esiste in tutto il mondo ed esisterà sempre. Certo, ma che sei, Papa Francesco? Certo, chi sei? Bisogna legalizzare. Ma questo lo sappiamo, che almeno secondo me bisogna legalizzare. Va bene, ciao Francesco. Oh, Lucia da Pordenone dal camper, se non sbaglio. Lucia, quando sente parlare di prostituzione, di multare i clienti, si incazza, se non sbaglio. Lucia, amica mia, la puttana somala, vai. Io ce l'ho con Parenzo. Con Parenzo, certo. Perché Parenzo fa radical chic, però è il primo che va a puttane. No, non va a puttane, Parenzo. Ma come si permette? Questo lo dici tu. Ma come si permette? Puttane in casa. No. Ma come si permette? Te lo dico io, quelli che parlano troppo male delle puttane. Ma io non parlo male delle prostitute per nulla, anzi, ma no, non le permetto di dire che... No, ma tu ce l'hai con i clienti, ma perché devono prendere la multa dei clienti? Io ce l'ho con i clienti, cioè sfido chiunque a trovare... I clienti... Lucia, quanti soldi hai fatto oggi? Puniti. Neanche uno. Ma appunto, ma questa è una vecchia, ma questa, diciamola tutta, ragazzi, perché altrimenti... Senti, sta qua, è una signora, termini, questa è una signora simpatica, anziana, una vecchia gloria della prostituzione pordenonese, ed è qui, non avendo perché, nulla da fare, perché il suo lavoro è non è inattivo. Ma che la prostituta anziana. I clienti capiscono che multe non vengono. Signora mia, io credo ci sia un'altra ragione. Lei è una adorabile ex prostituta anziana che ha voglia ancora di esercitare. Però siccome non viene meno di nessuno, perché neanche Mauro da Mantova, che per carità è il prototipo per me del nulla assoluto, ma si farebbe tutti quei chilometri per andare da una signora ormai anziana ed è cotta, lei telefona in trasmissione per farsi una pubblicità gratuita. Nel suo camper non entra nessuno, guardati, quindi lei non ha problemi, non ha problemi, stia tranquilla. Io sono la mia età, però sono ancora in manca anche la lucidità, no, completamente ancora... no. Ma figuriamoci, dai, sta lì tutto il giorno senza fare l'ultimo nulla, cliente, ma va bene, tu d'accordo. Sei un cesso. Sì, va bene. Quando l'hai fatto l'ultimo cliente? Ma nel 1942 l'avrà fatto, ma dai, cagare, siamo nel 2016. Vai. Quando l'hai fatto l'ultimo sei cliente? Ma figurati quando l'ha fatto. Io ti voglio aiutare, amica mia, fatti mandare qualche cliente, dammi le coordinate. Ma non ho bisogno, ma però sì, che questo scemo c'è qua. C'è la fila, c'è proprio, guarda. Bene a multare i clienti. Ma benissimo fanno. Ma lei comunque che problemi ha? Lei c'ha sto camper scassato. stato messo chissà dove, sta dentro sto camper, non viene nessuno, perché lei ormai è anziana e ha chiuso la sua piccola azienda. Ecco, poi faccia quello che vuole, me ne frega niente. Hanno paura. Quando ma paura di chi? Paura di vederla, perché si spaventano. L'unica paura che hanno è quella di vederla, perché si spaventano, ma Lucia. Cagare, lei sarà stata una vecchia gloria, una vecchia gloria degli anni passati, barra inizio Novecento, la prostituzione ex ante legge Merlin, inizio Novecento, in quel periodo lì sarà stata. Quanti anni hai, Lucia? Sarà stata gettonata. Adesso quanti basta. Anni hai? Pensa a te. 60 anni, vabbè, ma 60 anni ancora, ma una può fare. Non mi danno 60. Appunto, non danno 80, infatti. Dai, comunque, no, non importa. Meno, comunque, lei ha talmente poco da fare che continua a telefonare qui in orario di lavoro, in quello che dovrebbe essere l'orario di lavoro. Io telefono per se... io sento sempre la radio e tutte le puttane sentono la tua radio. Meno male, e sai, quasi giusto. Mi dicono quello. Anche degli imprenditori, però. Vabbè, bene, meglio. Sono diventato l'anti. Sono felice che le prostituite. C'è anche la tosse, le cose vuole lavorare. Su, vada a curarsi, si mette in pensione, accendi il caminetto col fuoco, cucini le castagne. Aspetta, Lucia, basta. Aspetta, dai, un attimo, che torniamo da te. Pensa a te, anche la prostituta dell'Ottocento. Parenzo, trasudi di classe ed eleganza, sei come Humphrey Bogart. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want? C'è da premettere che io sono una persona normale, penso. Ma stamattina, dopo aver ascoltato 3 podcast della Zanzara uno in fila all'altro, magicamente mi è venuta voglia di andare a mignotte e di pisciare nel lavandino. C'è da preoccuparmi? Grazie. And that's why everybody wants a piece of the action. Everybody... Il terremoto è la manifestazione dell'ira di Dio. Ma l'ira non era uno dei 7 peccati capitali? Ah, tana! Padre dei calcoli, Cavalcanti, come cacchio si chiama là, quello del terremoto, c'ha ragione. Ieri stavo nubifragio a Bari. La prima cosa che ho pensato, ecco, colpa di tutti sti fruci che stanno in giro. Ce ne sono una marea. Allora, se teologicamente il prete di sta minchia ha ragione e quindi i paesi di Amatrice, di Norcia sono state colpite perché sedi di chissà quale aberrazioni e perversioni, allora dà indirettamente ragione anche a quelli dell'ISIS, ai fondamentalisti islamici, che interpretano alla lettera il Corano. Né più né meno, vadano a fare in culo loro e le loro interpretazioni teologiche di sto cazzo. Ma scusate, qualcuno gliel'ha spiegato a questi super cristiani che dicono che Dio ci punisce in quanto omosessuali, coi terremoti, che in Sardegna non avviene un terremoto da 4.000 anni? Allora, o in Sardegna non c'è un frocio, oppure si concentrano tutti in Umbria, Abruzzo e Lazio. Boh, qualcuno glielo vuole spiegare, per favore, grazie. A causa del vento, le tende allestite per la messa nelle zone del terremoto sono state spazzate via. Questa è la punizione divina per quelle cazzate dette tutti i giorni da Radio Maria. La punizione divina. Ma sono più matti quelli che pensano che i terremoti li mandi Dio o quelli che perché Dio non ci mandi i terremoti si tagliano la pelle del cazzo? Ma... Allora, la ricostruzione della vicenda del carabiniere, Parenzo, è questa. Febbraio 2015, sì. Ostravetere, provincia di Ancona, una pattuglia di carabinieri intercetta sulla provinciale un SUV bianco della Mercedes con a bordo 3 malviventi. L'auto risultava rubata 5 giorni prima ed era già stata segnalata 2 volte per furti nella zona. Ne nasce un inseguimento, ma i malviventi riescono a seminare le forze dell'ordine. Poi arriva una nuova segnalazione. Gli albanesi sono già tornati al lavoro. Dopo alcuni minuti i militari vedono il SUV fermo a bordo strada. Come da manuale, due agenti scendono dalla volante per controllare la vettura e si avvicinano al finestrino. Basconi, che è il carabiniere condannato, si piazza dietro l'auto di servizio. Sono le 19 circa, è buio. Il comandante accende la torcia per osservare l'interno del SUV. A quel punto si sente un forte botto. Il bandito preme sull'acceleratore e tenta di investire i due carabinieri. Basconi esce allo scoperto, fa qualche passo verso l'auto in fuga ed esplode quattro colpi. Quattro colpi. Il militare mira le ruote dell'auto. Un proiettile finisce su un pneumatico, il secondo sul cerchione, il terzo sulla marmitta e l'ultimo sull'asfalto. Questo rimbalza, trapassa il lunotto posteriore dell'auto e si infila nella nuca dell'albanese sul sedile posteriore. La Mercedes continua la sua fuga, poi i complici, figuriamoci, abbandonano il 24enne lungo la provinciale agonizzante con i guanti calzati e la rifurtiva nello zaino. Morirà quattro giorni dopo in ospedale, cioè ai suoi amici non gliene fregava un cazzo di questo. Beh, questo qua. Non toglie, beh, lo hanno abbandonato con un sacco di monnezza. Ma che siano dei criminali, non c'ho di dubbio, sia loro, ma che cazzo mi frega sia se i complici morto, dai, che quel che è morto. Che non vergogna. Nessuno mette in discussione il fatto che siano dei criminali, senza cuore e senza pietà, tant'è che anche i soci i suoi amichetti dai, di rapina l'hanno buttato abbandonato via come un sacco della monnezza. Ma nessuno mette in discussione questo la ha sparato quattro colpi per fermare l'auto. Uno di questi non colpisce dubbio, per non caso è questo l'oggetto colpisce di quel per processo. Caso la nuca di quello, si può dire chi se ne frega, ma perché uno non può dirlo chiaramente? Io lo sento, chi se ne frega, e lo dico a me del fatto che quel carabiniere sei fuori in dalla servizio legge, quel capisci? Carabiniere in servizio, tu lo dici emotivamente perché tu no, sei emotivamente. Un trampino italiano, ma che sei così cazzare. Un salvinino italiano che dice chi se ne frega, il professore universitario, no, ma il professore no, però tu parli con la pancia. Io parlo con la testa, parli non con la pancia, con col pisellino, non con la legge. A proposito, cioè, di pisellini, Lucia, come sono le misure delle persone che vengono a trovarti nel camper? No, guarda, io preferisco quando vengono piccoli. Ah, tu li preferisci piccoli, eh? Sì, piccoli. Vabbè, quello è normale, amico. Pensa, adesso ti spiego una cosa. Io ho fatto tutti i miei. Stiamo parlando, diciamolo, no, caro Parenzo, stiamo parlando con una persona che alimenta in qualche modo il PIL di questa nazione. Ma chi allora? Beh, è venuto un cinese. È venuto un cinese. Ma avanti, aspetta, avanti adesso cinese. Ti racconto. Racconta, un cinese. Dimmi. Ma dice, quanto lo vuole tutto? Sai come parlano loro, no? Beh, no, non io sì. Dico il prezzo, fa dice andiamo. Ma mi credi, il fungo porcino? Sì. Il fungo porcino era più grande il fungo porcino che il suo cazzo. Beh, adesso questo. Allora lui, scusami, mi Lucia, dice, ma questo quanto tempo fa? Recentemente? Recentemente. Vabbè, per te va bene, meglio. Viva i cinesi allora per te, tanto meglio. Tanto no, per... ma non entrava neanche. Lui mi fa dice tutta la elettrolanda. Vabbè, però chi se ne frega. Ma non era neanche dentro. Vabbè, Lucia, io non ho capito. Tu oggi ci hai chiamato perché sei incazzata perché Parenzo sono vuole. Sono incazzata con Parenzo. Perché vuole multare i clienti delle prostitute. Non è una cosa nuova questa qua, che Parenzo vuole multare i clienti delle prostitute. Tu sei incazzata perché pensi di perdere i clienti. In realtà, Parenzo sostiene. Non si può perdere quel che non c'è. Quindi è difficile ma perdere. I clienti hanno paura. Ti ma giuro, che hanno paura? Lì vengono paura. Nel camper, non è che vengono multati in quel ma caso. Ma no, ma loro aspettano fuori dal camper, eh? Sì, ho capito. Cioè, ma c'è privata. La fila con la polizia a cavallo, che, con lo sfollagente per mandarle via. Ma è già tanto. È già tanto se nel 1942 qualcuno è venuto lì. Quelle che sono sfruttate. Ma questa ma non è sfruttata. Lucia non è sfruttata. Hai un papone? Lui dice. Hai un papone? Ma i paponi non lo te prende. No, ma no, che no, prende no. Il papone? Ma mica va a perdere. Hai un agente? Scusa. Hai un agente? Chi è il tuo presta? Chi è il tuo pre? Chi è il tuo caschetto? Chi è? Nessuno. Sono sola. È sola, capito? Non ha agenti. Parenzo non ha agenti. Per forza. Ci vorrebbero gli agenti delle prostitute. Ci sono, si chiamano magnacci e sono quelli che sfruttano le donne. Lo so. Questa qui non ha nessuno, ma perché è evidente, è una signora. Vabbè, non ha da fare, poverina. È una Parenzo, non degradare la gente, guardati te. Ha ragione, Lucia. Però anche te hai parlato dei piselli piccoli dei cinesi. Non sei stata gentile con i tuoi clienti. Scusami. No, ma io non ho detto mica niente. No, come non hai detto niente? Hai detto che i cinesi. No, non ho detto niente. Io lo guardavo solo. Ma te credo. Ho detto, io non ho mai fatto un cinese. Voglio fare un cinese. Vabbè. Lorenzo, Siena. Ciao, Lucia. D'abbraccio. Ciao. Lorenzo, vai. Ciao. Dimmi. Ciao. No, volevo dire che per la cosa della Rai mi sembra abbastanza grave questa cosa. Cioè, io che cosa? Chiederei la sospensione di questo programma. Non si può aizzare o comunque dire così che ci si può. Io non sono per la sospensione di nulla e sono contrario e sono contrario a qualsiasi censura possibile immaginabile. Io non so se sia illecita, non credo che sia illecita, è chiaramente una fiction. No, ma è una fiction, non è che si fa le canne sul serio, cioè non è che si fa le canne, credo che non si facciano le canne sul serio. Comunque, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, è grave, noi abbiamo figli, diciamo, stiamo attenti a tutte le cose, poi la RAI con le nostre tasse fa vedere queste cose. No, la RAI, allora ragazzi, per magari le persone non lo sanno. E allora uno va al cinema e poi si trasforma in Superman, non ho mica capito. Domani è venerdì, su Rai 2 ci saranno le prime puntate di Rocco Schiavone, tratto dal bestseller di uno scrittore che si chiama Manzini. Allora, il vice questore Giallini, che è il protagonista, Giallini è chiaramente l'attore, secondo quello che abbiamo letto in queste ore, è uno piuttosto alternativo, chiamiamolo così, e si fa le canne. Il direttore di Rai Fiction dice... un po' ironicamente, se non fumasse la marijuana questo vice questore sarebbe andato in onda su Rai 1, cioè la fiction. Comunque è vero, evidentemente nel personaggio c'è il fatto di fumare la marijuana. Allora Lorenzo dice è incazzato perché la Rai non dovrebbe mandare in onda una fiction dove c'è un ispettore di polizia addirittura che si fuma le canne, giusto? Le canne è una cosa illegale, siamo contro la droga, roba da conigli, l'erba, l'abbiamo sempre detto fin da ragazzi. Chi l'ha detto? Non ho capito. Dicevamo. Ma io sono per la legalizzazione, figuriamoci, uno può fare quello che vuole nella vita. Certo, è abbastanza strano che la Rai mandi in onda una fiction in cui c'è un protagonista il quale esplicitamente, non è che ogni tanto si fa una canna, è uno che si fa continuamente di marijuana, non c'è dubbio su questo. Dovrebbe dare le dimissioni questo direttore della Rai Fiction. Va bene, ciao Lorenzo, ciao. Mia moglie ascolta La Zanzara ed è concorde con me nel dire che Cruciani è uno stronzo. La Zanzara. Allora c'è un tizio che mi scrive: abito a Pordenone, voglio sapere dove lavora Lucia, però non sono cinese ma del Senegal, vado bene, vabbè, è deficiente, cioè, ma a parte queste battute ridicole, tu pensi che noi crediamo per davvero al fatto che tu sei senegalese e dunque in teoria avresti una cosa diversa rispetto al cinese che ci ha raccontato Lucia? Dai, su, ma perché dovete venire a rubare a casa dei ladri? Cioè, guarda che è incredibile, cioè, vengono a rubare a casa dei ladri. Comunque, David, io questa storia del carabiniere la voglio approfondire, diciamo così, approfondire, chiamando l'avvocato dell'albanese ammazzato, cioè che rappresenta in realtà la famiglia dell'albanese ammazzato. Famiglia dell'albanese ammazzato che vuole il denaro, il danè. Questo qualsiasi persona che ha subito un lutto, purtroppo hanno... non potendo riavere vivo il parente, lo monetizza, questo lo fa chiunque. Gli albanesi, parenti del ladro, vogliono 2,5 milioni di euro. 2,5 milioni di euro, più i soldi dal carabiniere per gli avvocati, eccetera, eccetera. Allora, uno degli avvocati si chiama Teodoro Serino, credo che rappresenti, chiamiamolo ragazzi, credo che rappresenti i fratelli del morto, ladri pure loro, non lo so, non credo. Pronto? Avvocato Serino? E buonasera. Buonasera Radio 24, come sta? Buonasera, bene, grazie. Senta avvocato, allora, volevo sapere innanzitutto se è contento di questa condanna del carabiniere. No. Diciamo che ci riteniamo soddisfatti per la statuizione del giudice, non pretendendo né di più né ritenendo che sia eccessiva poca. Scusi un attimo, ma... Però la condanna ci stava allora. Purtroppo sì, per la condotta così come lui l'ha posta in essere, che era contestata, sì. In particolare per che cosa secondo lei doveva essere condannato il carabiniere? Lui è stato condannato per omicidio colposo, avendo ecceduto nell'uso delle armi. Cioè perché ha sparato quattro volte? Ha sparato quattro colpi in corsa, in una strada buia, in discesa, in una macchina in fuga che aveva la strada da libera davanti a sé, perciò erano... Tra l'altro il morto è quello che stava seduto dietro, non era neanche alla guida. Però scusi un attimo, è il carabiniere che spara, il colpo arriva accidentalmente, non è che lo sparano in testa al rapinatore. Certo. E secondo lei non doveva sparare? No, perché è stato l'unico che ha sparato, tra l'altro. L'uso legittimo delle armi è disciplinato dal codice, non da certo. L'avvocato. Ha commesso un errore? Ha commesso un eccesso, non un errore. Però scusi un attimo, quello fuggiva insieme ai suoi complici? Sì. Ho capito, fuggiva, e dunque uno per catturarlo o per No, l'articolo non ricordo quale, 53 o 51, per l'uso delle armi può essere fatto o per vincere una resistenza o per porre fine ad una violenza. La fuga non è, è resistenza passiva, non è codicisticamente... Cioè, scusi un attimo, secondo lei fuggire non è un reato? No, ma non lo dico io, lo dice il codice. Purtroppo il codice non prevede la possibilità di poter sparare ad un soggetto in fuga quando anche abbia commesso uno dei più efferati reati, perché non lo consente il codice. Ah, secondo lei ha sparato all'impazzata? Uno spara quattro colpi? No, all'impazzata ha ecceduto colposamente, ne poteva sparare uno, due, voglio dire, che se fosse stato un solo colpo, ma voglio concedere anche il secondo. Tra l'altro, questo forse... Cioè, il problema sono quattro colpi. Il problema sono quattro colpi. Quattro colpi in corsa, se lui correva. Ho capito, ma in corsa, ma è normale, ma uno per fermare i ladri per fermare i ladri che scappano, cosa deve fare, avvocato? Ma mica nei film, che gli dà un mazzo di fiori, cosa deve dare? Lo deve inseguire, dice il codice che lo deve inseguire. Ma non è che gli dice il codice, ogni tanto uno si attacca a delle cose così, il codice è interpretabile in mille modi, avvocato, lo sa. Scusi, taglio quel colpo, invece di rimbalzare nella testa del ladro, avesse ucciso un italiano o un passante. Staremmo a parlare così. C'era nessuno sulla strada, però sulla strada non c'era nessuno, non era un inseguimento in mezzo a una via della città, era su una strada, come lei ha detto, una strada dove non c'era nessuno. Sì, ma loro invece sostengono che dovevano sparare perché potevano mettere in pericolo qualcuno con la loro fuga. Ma è chiaro, i ladri in fuga qualcuno mettono in pericolo, su questo non c'è dubbio. Cioè, non è che si ferma nei posti di blocco, possono investire qualcuno, possono andare a fermare altre persone. Va bene, avvocato, voi chiedete un sacco di soldi, però, 2,5 milioni. Che non ci sono stati concessi in via provvisionale. 2,5 milioni di euro, dove li trova sto carabiniere, secondo lei? Non lo so. Non lo sa. Non è un mio problema. Non è un suo problema. Cioè, 2,5 milioni, la famiglia del signor nomade ladro chiede 2,5 milioni a un carabiniere. Io le dico, per lei è tutto normale? Penso di sì. È tutto normale. L'importante è che paghino l'avvocato, veramente. Poi lo pagano o no l'avvocato, sti nomadi? Veramente, il codice prevede che noi ci possiamo rifare sul carabiniere per essere pagati. E dunque voi può darsi pure che vi rifate sul carabiniere? Il giudice ha statuito dei compensi, dei rimborsi agli avvocati. Quanto vi deve dare il carabiniere? Allora, io il dispositivo non lo ricordo a memoria. Sì. Mi pare 2005 all'avvocato Maurizio Cacaci, che difende, sì, per la verità, i genitori e un altro fratello. Io che difendo altri due fratelli, 2002, intorno ai 2000 euro. Però adesso addirittura i soldi del 2005 al carabiniere, 2000 euro al carabiniere. Purtroppo questa è la legge che adesso è vigente in Italia. Scusi, ma secondo lei questi nomadi sono dei criminali? Questo nomade in particolare che è morto? Ah, io non lo conosco personalmente. Ma non l'ho mai conosciuto. Capito? Lei lo saprà se è un criminale o no? Ha dei precedenti? È un criminale? Cioè, lei riconosce che questo nomade, il suo assistito, è un criminale? Cioè, il suo assistito, in realtà la famiglia, insomma, sono dei criminali o no? No, per quello che io sappia, no. E quello invece era un criminale, immagino, no? Era un ladro. Sì, ma non è questo l'oggetto del processo per oggi. Infatti. Non è quello l'oggetto del processo, cioè come va a chiedere all'avvocato della difesa del decuius, cioè del morto? Lì è morto uno che era un criminale, però è morto in che circostanze? Nelle circostanze in cui un poliziotto un carabiniere ha usato un eccesso, si è messo a sparare in primo grado, in primo grado. Ma non si è messo a sparare per strada, ha sparato a un'auto in fuga. Ma non si fa, perché non è un film. Ma non si spara un'auto in fuga. Non è un film, non è il cinema americano, non è Trump. Vabbè. Questo è un altro paese dove c'è un codice. Non si spara un auto in fuga. Che prevede che se tu spari per strada alla cazzo, dicono i giuristi meno. Allora vogliamo chiedere all'avvocato se ha sparato alla cazzo. Ha sparato alla cazzo? Chiediamo all'avvocato. I giudici hanno detto che insomma, quello è morto. È stato condannato e deve risarcire. Funziona così. Cioè, e allora non è che giustifica, avvocato, siccome quello è un criminale, aspetta, è morto. Avvocato, ha sparato le democrazie non funzionano così. Avvocato, ha sparato alla cazzo? E non so cosa voglio dire con questa espressione. Va bene, avvocato, grazie. Buonasera. Grazie, arrivederci. Grazie. Prego, grazie. Buonasera. Da David, ma ti pare normale che l'avvocato dica è importante intanto che il carabiniere paghi noi 2.000-2.500 euro eccetera eccetera? Beh, in realtà non sarà, non è detto che sia la, il carabiniere a risarcire, cioè quello fa l'avvocato di parte di una, della famiglia, e di parte civile, e quindi ragazzi dai, che deve fare? Ha fatto il suo lavoro. Che tristezza che ha mi difeso, viene, guarda, ma non c'è diritto alla difesa. Che paese di merda, guarda, che paese non di merda. Ma scusa, e qual è il paese che ti piace? Il carabiniere che spara, muore... ti ho raccontato prima. Comunque, qual è stato il dettaglio della cioè cosa, il carabiniere che spara a prescindere ha ragione, ma che a perché prescindere? È un carabiniere, un'auto in fuga, paese, un'auto in un paese, fuga va bene, da dai. Putin ad esempio in Russia l'auto in fuga dei ladri, di ragionare dai. Può funzionare, ma non è vero che Russia ha sparato Putin, a cazzo però. Non è vero, era in un'auto in fuga, ha sparato là e uno dei colpi accidentalmente ad ammazzare il ladro, dai, su, non è vero che ha sparato all'impazzato come dici tu, sembra un inseguimento tipo Far West, dai. Cruciani, Parenzo, una lite con mia moglie, non mi vuole fare ascoltare la diretta. Dai. Ma vai a cagare. La zanzara. Andrea, 42 anni, da sempre lettore di sinistra. Grazie alla zanzara sto seriamente valutando di passare all'altra sponda, cioè votare destra. Grazie Parenzo, grazie. Continua così, grazie. Sono le 6.30 del mattino a New York, sto andando alla partenza della maratona e per caricarmi mi sto ascoltando i podcast della zanzara, anche se per farlo ho dovuto attivare il 4G, quindi mi costava tantissimo, ma non mi importa, ho bisogno di caricarmi con la zanzara. Sono alla prima settimana di zanzara e già sento la cattiveria nelle vene. Siamo al top. Da buon dipendente pubblico, ti spacci in malattia. Ti svegli tardi, colazione, podcast della zanzara e siamo al top. Sulla metro di New York, cuffiette con il podcast della zanzara e davanti a me neri, gay, musulmani, immigrati. È uno zanzara party, siamo al top. Allora ragazzi, qualcuno mi invita, Parenzo, a fare una raccolta di fondi per il carabiniere. Ovviamente ci penseremo, non è che possiamo fare raccolte di fondi quando le persone non vogliono farle, naturalmente, Però sono tentato di fare questa grande operazione in sostegno di un tutore delle forze dell'ordine che, rincorrendo quattro ladri per sbaglio, per me poteva anche farlo, diciamo, direttamente, però lasciamo perdere questa cosa mia, per sbaglio ne uccide uno e viene condannato a un anno a pagare le spese agli avvocati, abbiamo sentito prima, e in più forse a pagare pure 2,5 milioni di risarcimento o non so quanto. No, quello non gli verrà mai riconosciuto. Beh, non gli verrà mai riconosciuto, chi te l'ha detto? Cioè, se uno viene condannato alla fine non ci sarà il risarcimento civile. Non si è mai sentito civile. Un risarcimento, come no? Di quella dimensione. Come no, assolutamente sì, assolutamente sì. Di quella dimensione magari no. Allora andiamo a Roma, Luciano, vai. Luciano, eccolo, vai. Dimmi, buonasera, dimmi. Ciao. Dimmi. Dunque, un tanto col carabiniere fino alla morte, prima. Quello sempre. Secondo voi, se uno di una cosetta di Parenzo. Sì. Il signore lì dice sempre che lui è giudeo. Beh, non è che dice, lo è, non è che dice. Intanto se mai giudeo, si dice se mai ebreo, ma non so che... Termine giudeo è un termine spesso dispregiativo, devo dire la verità, la parola giudeo. Beh, vabbè, però... non intendevo in quel senso lì. Comunque. Vabbè, allora? Invece io ti posso dire che quest'estate ero a cena in un ristorante abbastanza famoso a Roma. Sì. E due tavoli da me c'era il signor Parenzo con altre due persone. Vabbè, e anche allora loro stavano mangiando. Le grandi inchieste di Luciano, dunque? No, non è un'inchiesta, mi trovavo lì, mi è capitato, siccome lo conosco, l'ho visto in televisione, allora? Sono lui quello che dice, che professa, no? E allora se stava a mangiare ricca carbonara, hai capito come? Ma che c'entra la carbonara? Non credo che sia assolutamente possibile, ma... perché c'è il maiale. La carbonara c'è il maiale dentro. Ma non devo rendere conto, non ho mangiato magari mai una carbonara, ma... Era una carbonara, se dice, era la carbonara con il guanciale. Ma io non avrei nessun problema a dire che l'ho fatto, cosa che non faccio perché non mangio il maiale. Adesso come fai a sapere quello che c'era? Anche poche sere fa ha affermato che non mangia maiale lui, no? Ma perché certo, sai che era la matriciana con il guanciale? Mangio, ma mi dica dov'è questo posto? Stava a mezzo metro da me, ho visto, ho mangiato pure io. Ma mi dica questo posto come si chiamava, così vedo di capire se ci sono stato intanto. Ma io non so se si può dire per può dire quello che vuole, mi dica il posto intanto. È Camponeschi a Piazza Farnese. Non ci sono mai stato, purtroppo, ma ci andrò. Va bene, Luciano, ciao. Mariella Trieste. Le assicuro Mariella che non ci sono Trieste. Mai stato. Mariella Trieste. No? Buonasera. Dimmi, dimmi. Sono Mariella da Trieste, è un piacere sentire perché sono tutte le sere incollata alla radio. Molto bene. Sentite molto una bene. Cosa. Dimmi. Allora, volevo fare delle riflessioni per quanto riguarda adesso la faccenda americana. Non esageriamo, riflessioni. Allora, la Clinton e tutti quanti la vogliono presidente, sì, e fanno i moralisti, però dimenticano che nel suo curriculum non c'è mica poco, insomma. Che c'è? Il marito alla cornificata in lungo e in largo, no? Beh, allora non questo non credo che c'entri con l'elezione alla White House. Se il marito avesse avuto tanta opinione della moglie, forse non l'avrebbe neanche cornificata. Ma guarda, non è, non è così. La riflessione, non esageriamo. Allora, cara Mariella, io per carità non sono un tifoso della Clinton, come lei sa, faccio il tifo per il signor Donald Trump. Però questo non c'entra assolutamente nulla, devo dire la verità. Cioè, se la signora Clinton è stata tradita esplicitamente dal marito, questo sulle sue qualità di presidente non c'entra assolutamente niente. Perché non ho capito. Nulla. Se una è stata cornificata, significa che non è in gamba. Non ho capito, Mariella. Spiegami. No, ho detto così, che loro parlano sempre di moralismo, no? Ho capito. Questo voglio a dire. Me non piace la coppia Clinton, però chi se ne frega, non è il problema non sono le corna, cioè l'ipocrisia, capito? Cioè l'ipocrisia. Questo volevo pensare proprio a queste cose qua. Senta, Mariella, che mi vuoi poi dire? Poi volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda il poliziotto, sono dalla parte del poliziotto, perché è una cosa indecente sostenere questa tesi che quello che scappava, che aveva rubato, bisognava lasciarlo perdere, insomma, mi sembra assurda. Sì, uno deve scappare, deve fuggire. Nessuno ha detto la questo. Condanna è il risarcimento danni a quel personaggio indecente. Ecco, io la vedo così. Va bene, ciao Andrea Viterbo. Ciao, vai Andrea. Ciao Luciani. Dimmi, dimmi. Ti volevo dire che purtroppo tecnicamente l'avvocato che mi dicono essere intervenuto prima, che ha difeso l'albanese o gli albanesi, non ho capito. La famiglia del morto. La famiglia del morto, esatto. Tecnicamente avrebbe anche ragione. Sì, ma tecnicamente di quello stiamo parlando. Se no, cambiate la legge. Ragazzi, fate una proposta. Ma tecnicamente non c'è una verità oggettiva. Ma ci sono le interpretazioni. Esatto, è un'interpretazione. Ma c'è sempre l'interpretazione. Ma altrimenti, di che stiamo parlando? La ricostruzione, come dire. Dice che nel momento in cui tu fuggi, tu ladro, assassino, delinquente, indipendentemente dal reato che tu abbia commesso, che sia andare a rubare a casa di Parenzo, distruggere la macchina o quello che sia, nel momento in cui tu fuggi non costituisci più un pericolo alla vita delle persone. Allora, se c'è scritto questo è una follia. Ecco, follia. È cambiate il codice. Non mi interessa. Fate una petizione popolare. Cambiate il codice. Ma non è questione di cambiare il codice. Il codice misura la pena. Cioè misura. Ma questi erano dei criminali. I codici evoluti in democrazia hanno questo, che misurano e quantificano la pena. Non tutti, certo. Non tutti. Va bene, Andrea, ho capito tutto. Ciao, grazie. Ciao. Allora, caro David, ricevo questo che si chiama tecnicamente screenshot, sai che cos'è, no? Sì, una fotografia del telefonino, di una cosa del telefonino. Una cosa su web in particolare. Sì. Allora, un signore che evidentemente è un allevatore delle zone terremotate scrive: vendo per colpa del terremoto 10 vitelle femmine marchigiane, 4 vitelli maschi e 4 vitelle femmine, tutte grasse, pronte per il macello, e altri 3 vitelli iscritti marchigiani da ristallo, vabbè, termini tecnici degli allevamenti, zona di Visso, una delle più colpite dal terremoto. Evidentemente è crollato tutto e questo non può più fare l'allevatore. Il signor Enrico Rizzi, l'amico, te lo ricordi Enrico Rizzi? Quel pazzo... Partito Animalista Europeo, Partito Animalista Europeo, pazzo, appunto. Scrive: il fallimento è alle tue porte e io godo. Cioè, questo signore gode per il fallimento delle aziende di allevamento che sono, come dire, crollate o che hanno avuto grandi problemi dopo il terremoto nelle Marche. Questo coglione di Rizzi, chiamatemelo per favore, chiamatemelo che lo concio per le feste. Pronto? Rizzi. Oh. No, di nuovo tu. No. Amico mio, ma che so? Ma che ti hanno fatto? Ma che ti hanno fatto gli allevatori? Gli allevatori del terremoto? Che ti hanno fatto gli allevatori del terremoto? Mi fa piacere di sentirti, però sono sincero, perché era tanto che non ti sentivo. Appunto. Come stai, Cruciani? Come stai? No, come stai tu? Come stai tu? Che mi sembra non sei cambiato. Non cambia. Sto bene, Cruciani. No, ma non stai bene. Amico mio, te la prendi con. Quale posto hai visto? No, te la prendi con gli allevatori del terremoto. Gli allevatori del terremoto. Amico mio. Perché è una novità per te, non lo sai. No, ma non ho capito, questo qua è uno che vuole vendere, pure è costretto a vendere per colpa del terremoto, 10 vitelle femmine, 4 vitelli maschi, 4 vitelle femmine. È sprofondato chissà dove, guarda, ne ho un gran piacere, è sprofondato chissà dove, ne ho un gran piacere. Cioè tu stai godendo perché quello è sprofondato? Ma aspetta, non fare differenza come hanno fatto in molti sul web, la popolazione a me dispiace tantissimo. No, l'hai sprofondato, tu hai detto è sprofondato e ho un gran piacere. Tantissimo. Perché questo non è una popolazione, non fa parte della popolazione. No, questo è uno che ammazzava gli animali. Quindi fa. Beh, certo, è un allevatore. Mamma mia, ancora con ste cazzate. E dunque dovrebbe morire. Perché un allevatore ammazzava gli animali, dovrebbe morire, secondo te? Non ho detto che deve morire. Lui ha messo un post dove ha detto: siccome la mia azienda è sprofondata a causa del terremoto. E tu sei contento? Sì, alla grande, così non ci saranno più altri animali che soffriranno per. No, ce ne saranno altri lo stesso. Quello amico. È ovvio. Ma almeno con lui no. Lo so che ce ne saranno. Cioè, altri, tu sei contento del suo fallimento? Con lui no. Sei contento del suo fallimento? Alla grande, ma speriamo che ce ne siano altri, guarda. Mamma speriamo mia, guarda. Mamma mia, ma. Non smettere di torturare gli animali. Ma smettila, dai. Millennio, ti devi svegliare, tu come tanti altri, ti devi purtroppo svegliare e capire che non c'è più bisogno di maltrattare uccidere. Amico mio, tu sei lo stesso che dice che l'unico cacciatore buono è quello morto. Cioè, tu sei uno. Sì, è certo. Ma certo un cazzo, dai. Come certo? Come certo un cazzo? No, certo e funziona così. Ma che ti dice la testa? Cioè, in generale, che ti dice la testa? Buonasera, guarda chi si sente pure dall'altra parte. No, ma appunto, ma chi va? Scusami, in generale, Rizzi, che ti dice il cervello? Scusami, Rizzi, scusami un attimo. C'è un'altra cosa che ti volevo chiedere. Tu sei uno di quelli che dice che il comune di San Gineto, una del Partito Animalista Europeo, dice che il comune di San Gineto andrebbe seppellito dal terremoto dopo la vicenda del cane Angelo. No, io su questo prendo le distanze assolutamente. Beh, cacciala. Allora, a parte che io non faccio più parte del Partito Animalista Europeo. Vabbè. Ho dato le dimissioni, avresti la pelle, adesso sono del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali. Sono il presidente. Siamo alla scissione dell'atomo. Stiamo organizzando assieme al Partito. Sì, lo so, una manifestazione, Europeo, sì. Una manifestazione. Mi auguro che lì prendi le distanze da questi quattro. Beh, che uno ammazza un animale, sì, è chiaro, che c'entra. Ah, almeno questo. Ma è normale, ma che sei scemo, sei? Avete messo le foto di questi quattro come se fossero dei criminali di guerra. Che devono fare? Questi quattro che hanno ammazzato questo cane, che pena dovrebbero avere secondo te? 28 anni, come è successo una. Quanto? 28 anni? Sì. Cioè, 28 anni in galera per aver ammazzato un cane? Civili come in America. Amico mio, dai. Questo è vero. Ma le Iene, per carità, no? Hanno fatto un ottimo servizio, hanno fatto la differenza tra il paese buffone che è l'Italia, che non ha, ma anche per le. Sì, però amico mio, 28 anni per aver ucciso un cane, 28 anni. Anzi, ti dico di più, dimmi. A mio avviso, l'ergastolo. In Italia attualmente chi uccide un essere umano dovrebbe prendere fino a 30 anni di reclusione, sì, 20, sì. 30, invece? Siamo lì, non li fa mai. Chi uccide un anziano, un animale, un bambino dovrebbe prendere di più. Doppio. Cioè, secondo te uno che ha questi quattro che hanno ammazzato avere il doppio. Sì, d'accordo, ho capito. Questi quattro che hanno ammazzato quel cane lì, secondo te andrebbero condannati a morte? Cioè, tu li vuoi vedere morti? Dì la verità. No, condannati a morte no. Io penso che però in carcere a vita, l'ergastolo. Sì, no, l'ergastolo no, 40 anni. Vabbè, ciao Rizzi, ma rotti i coglioni, ciao. Lavori forzati. Ciao. No, cosa gli vuoi dare? Il premio? Gli vuoi dare la. Ma che premio? Lavori forzati per aver ammazzato un cane, dai, su, ciao. Ma vergognati, Cruciani, guarda. Ma vergognati tu. Sei proprio inaccettabile. Ma no, ma per me sono dei coglioni, ma 40 anni esagerati, lavori forzati, dai, ma di che stiamo parlando? Però 20 sì, ci sta. No, dimmi tu qual è la tua giusta pena, dimmelo. Ciao, dimmelo, qual è la tua pena secondo te? Ma non lo so, la pena non lo so, 2-3 no. anni, dai, su, hanno ammazzato un cane, ragazzi, è diverso ammazzare un cane, ammazzare un essere umano, dai, non diciamo minchiate. Se glielo facciamo capire noi come quell'altro vigliacco che ha ucciso il cane al pesce, o i parlamentari si danno una svegliata e capiscono... E che fai? Se no che fai? Giustizia personale, che fate contro questi quattro? Giustizia... Andiamo sotto casa, gli roviniamo la vita, guarda, te lo garantisco, la gente si è rotta le palle, Cruciani. Ma che si è rotta le palle? Ci sono quattro coglioni che meritano di andare in galera per un periodo breve, però, non è che è la stessa cosa come ammazzare un essere umano, dai. Assassini sono dei pericolosi. Ciao, ciao, ciao, Rizzi, ciao. Come hanno detto dei psicologi, Cruciani. Cerca di studiare un pochettino, visto che stai sempre sul web. Ciao! Ciao, Cruciani, ciao. Cioè, sai la cosa che mi colpisce di più è che questi qua sono capaci di fare manifestazioni per l'uccisione di un cane, che per carità è una cosa condannabile, pure tu ti unisci poi al coro 20 anni per aver ammazzato un cane, ma che dico, sei matto? Sei... Beh sì, se c'è 20 come anni, dire la 20 volontà in galera. Proprio, beh perché no, se dai, c'è proprio la volontà, diciamo, di volerlo uccidere gratuitamente, c'è proprio una violenza gratuita. 20 anni, e... 20 anni, in galera, ma sì, 20 questo anni. Per, questo non mi stup... Certo, ma perché devi torturare un animale, ma, non vabbè, si capisce, no? Figuriamoci se io sono a favore della tortura degli appunto, animali. Quindi magari una pena adeguata, 20 anni. Vuole per evitare che la gente lo rifaccia. Sì, ma questi sono capaci di con manifestare brutalità per l'uccisione di un animale e poi fottersene di altre cose. Dai, mi sembra... Questa è un'altra questione. Dai, su. Parenzo, grazie a te ho imparato un nuovo vocabolo. Miserabile. Grandis. La zanzara. Ma ragazzi, buonasera. Una semplice comunicazione. Parenzo, sei un grandissimo. Continua così. Forza Parenzo tutta la vita. Un grande, un esempio. Grandissimo. Quando finisco di lavorare non voglio sentire tutti questi miserabili o tutti questi spostati. Noi della maggioranza silenziosa vogliamo sentire solo il nostro leader, David Parenzo. David, non so se sei posseduto dal demonio, ma una cosa è certa, sei un grande, hai iniziato questa stagione alla grande, non cambiare, non cambiare, anche se sei posseduto, non cambiare, David. Parenzo, siamo la maggioranza silenziosa, ma ci siamo, noi non molliamo, grande Parenzo. Parenzo nostro, che sei da Zagrebeschi, dacci oggi il nostro annuna quotidiano e non ci indurre a pisciare sul lavandino, ma liberaci da Mauro da Mantova. David, il sottobosco silenziosa ti sostiene. Lotta, lotta. Mi trovo in Lapponia, 300 km a nord dal circolo polare artico, e ascolto la zanzara. Traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, mi iscrivono moltissime persone per la storia del carabiniere, vorrebbero contribuire ad una ipotetica raccolta di fondi che forse promuoveremo. Troppi condizionali, però è così, ancora non lo so, vediamo, deciderò nei prossimi giorni. Uno mi scrive: buonasera dottor Cruciani, io ci sto a dare un contributo al carabiniere, crei un conto corrente, in realtà basta un IBAN, roba vecchia, valeriano. Poi c'è anche Alessandro da Milano che ci sta chiamando. Carlo da Roma, anzi Carlo, Carlo da Roma, ciao Carlo. Pronto? Dimmi Carlo, dimmi. Ciao. No, anch'io quello che stavi dicendo appunto te, sono, volevo donare 1.000 euro a questo carabiniere. Perché... 1.000 euro addirittura? Sì, assolutamente, io sono passato, cioè, ho un po' una visione controversa dei carabinieri, che da una parte ho subito da un carabiniere che rinvia lo giudizio per stalking, dall'altro sono stato aiutato dai carabinieri, e trovo che senza soldi in Italia non puoi vincere nulla in tribunale, quindi gli servono, poveraccio, per fare appello a questa persona. Servono senz'altro, quindi però non so come adesso. Carlo, vediamo, adesso chiamerò uno degli avvocati nei prossimi giorni, vediamo come fare. Sì, molti vogliono contribuire in realtà per eventuali spese e soldi da dare agli avvocati. Come avete sentito prima, ci sono due avvocati dei Rom, nomadi o romeni, quelli che sono, che hanno fatto causa. E perché non si fa lo stesso con la famiglia Cucchi, ad esempio, che ha dovuto sostenere sono cose diverse, spese processuali per dimostrare il fatto cosa che sono il pro- proprio parente sta, è morto nelle mani dello Stato. Adesso, anche perché, cioè, devi mischiare le cose? Le raccolte di fondi ideologiche fatte perché lo Stato, il carabiniere, ha sempre ragione. Ma non ha sempre ragione. In questo caso ha ragione. Che sta piovendo. No, secondo la giustizia italiana non ha ragione. Secondo me è sbagliato. Grado. In ogni caso, comunque. Ma secondo te, ma non è tutto soggettivo? Come varrà per le sentenze del caso? Vedremo. Tutto soggettivo. Perché se no finisce lo Stato di diritto. Se uno dice, no, ma secondo me non è una partita di calcio, non è Moggi, capito? Non è Moggi, si discute la Juve, il rigore c'era o non c'era. Alessandro da Venezia, vai Alessandro. Salve, buonasera. Dimmi. Ho chiamato solo per cercare di capire come si può commentare in questo modo l'azione di un carabiniere in servizio, e soprattutto se non si sa che cosa è il lavoro del carabiniere, che vita fanno loro. Lei è un carabiniere, un ex carabiniere? No, io sono un ex carabiniere, sì. Allora? La questione è semplice: quando un carabiniere si trova in servizio deve prendere una decisione di fronte a un fatto come questo, la decisione è rapida, è difficile commentarla ed è difficile anche per un giudice farlo. Assolutamente. Quindi, io mi auguro che Crociani si è detto che vuole fare un'azione nei confronti a favore di questo carabiniere, spero che la faccia e tanti parteciperanno. Io l'ho già fatto in passato per altri carabinieri e lo rifarei. Sì, adesso bisogna vedere le condizioni di questo carabiniere, anche economiche e tutto, però la realtà è molto semplice. Un carabiniere che è all'interno di un inseguimento ad un'auto rubata da parte di nomadi ladri, senza calcare troppo ladri, comunque insomma criminali, i quali scappano dopo aver rubato in alcune case, questo spara 4 colpi e non si può discutere 2 colpi sì, come ha detto l'avvocato, forse 2 colpi di troppo. Un processo deve discutere ma proprio di se quello ha invece. Sparato alle gomme dell'auto, non all'altezza d'uomo. Un processo d'uomo. Deve proprio per accertare cosa è successo. Per me infatti. Poteva sparare pure all'altezza d'uomo, non mi interessa. Però restiamo sulle cose che ci sono in questo momento. E lì deve andare in Texas per quello. E vabbè, amico mio, che ti devo dire? In Texas puoi andare. Vabbè, lì ma sì, so, puoi andare. Per me dovrebbe essere così in Italia, mi batterò perché sia così. Non ci riuscirò, ma mi batterò perché sia così. Mi batto per poche cose, una delle cose per cui mi batto. Perché la gente possa sparare liberamente a prescindere. No, la gente, i poliziotti in questo caso, i carabinieri. Guarda, ti faccio presente che in America, quando ci sono le rivolte dei neri contro ma i poliziotti, ma siamo in Italia, ma cosa vuol dire? Indistinto della forza. Allora, mi pare che ci sono giornali su giornali, inchieste giornalistiche, allora, tribunali, processi. Cioè, nelle democrazie funziona così. Tu l'hai viste le immagini incredibili? Io dico che in democrazia funziona tu così. Le immagini il carabiniere non è sganciato dalla ma chi l'ha legge? Detto? Infatti li condannano pure in America. Chi te l'ha detto? Allora, esatto, se allora, ritengono, ma tu ci sono viste, prove, lo condannano. Viste le immagini incredibili di Firenze di sabato, della Leopolda di sabato? Cioè, siamo tu arrivati all'assurdo. Di quell'aggressione no, che ma hanno siamo fatto arrivati, dei cialtroni sì, della polizia. Esatto, siamo arrivati certo all'assurdo in cui ci sono dei carabinieri. Oggi Guido Bagatta mi ha fatto vedere una foto. Guarda questa foto se non è incredibile. C'è una foto in cui ci sono alcuni carabinieri, alcuni cerellini, chiusi in un angolo. Ma chiusi, ma è una aspetta, vergogna chiusi quella in che hanno un fatto quei delinquenti. Ma siccome hanno ormai non si può fare nulla, perché se carichi e se picchi qualcuno, passi dei guai. Dipende, ma non è vero, ma ci sono dei codici di comportamento. I poliziotti, ma dove vivi? Dove vivi? È chiaro, ti dicono non possiamo fare nulla, non possiamo toccare nessuno. Ti spiegano che hanno una regola da seguire nella gestione della piazza. Ma quale fuori dal mondo? Mio nonno è stato pure questore, allora, ma ti pare che non difenda la polizia? Allora, c'entra i mio nonno è stato questore. Ma ti vuoi fare spiegare quello che c'è in quindi questa foto? Cos'è. No, ti vuoi fare spiegare o no? Allora, c'è questi poliziotti rinchiusi in un angolo e questi tizi con gli scudi davanti, addirittura con una corda di ferro, con una corda di acciaio, che è messa di fronte ai poliziotti per tirare via le camionette. Cioè, siamo arrivati all'assurdo che 4 criminali in piazza non si possono caricare, altrimenti dicono che la polizia è fascista. È ma così. Chi l'ha detto? Ma se Eugenio sono state fatte, ma chi l'ha mai detto che non poche, si possono fare? Sempre troppo poche. Ma non lo Eugenio decidi tu, lo decidono i codici dell'ordine pubblico. C'è un regolamento anche loro di come si comporta no, in piazza per non fare danni. Ma no, ma non lo sapevo che c'era un regolamento. E allora se lo sai, perché contesti come si sono mossi? No, io non contesto come si sono mossi. Ma scusami, ma non è che sei anche un questore? I questori sanno come gestire bene, l'ordine pubblico. Hai tu. C'è un decalogo da seguire sulla è sicurezza della piazza. È chiaro che ricevono, si sa, si è stato detto più ma volte, che ricevono ordini di ma ordini per come purtroppo gestire al meglio una situazione di è emergenza. Eugenio da Brindisi. Che vanno lì e a me quelle immagini a della polizia piazza rinchiusa negli angoli mi fanno schifo. Chiaro? Ma fa male a chiunque, fa male. E certo. Allora basta, Eugenio da Brindisi. E che fai? Spari con lanciarazzi? Ha detto che o lanci questo una camionetta in mezzo alla folla? Per fortuna la polizia intelligente non lo fa, no? Va bene, dai, comunque la famiglia Cucchi ha ricevuto 1,5 milioni dalla giustizia, Eugenio da Brindisi. Dai. Meno male, a titolo di risarcimento. Ma dico, in fase di processo qualcuno si è offerto di pagare i legali alla famiglia Cucchi? Eugenio, dimmi. Per l'ingiustizia subita. Senti, io vorrei che a questo punto carabinieri, polizia, forze dell'ordine facessero sciopero per un sacco di tempo. Vorrei vedere chi cazzo difenderebbe uno come Parenzo. Eccolo qua. È giusto che quello deve sparare alle gomme. Ecco, vabbè, qua il trampino italiano. Lo Stato mi manda a fare in culo una persona come il carabiniere che sta facendo il suo servizio. Ecco l'effetto Trump. E viene e deve pagare pure le spese d'avvocato. Mm. Quello lo dovrebbe fare lo Stato, non il cittadino. Mm-hmm. Qua siamo arrivati al punto che ognuno, ormai fra poco questi ci vengono in casa, ci ammazzano e noi li dobbiamo pagare. Ma quale avvocato? Ma veramente stiamo scherzando? Ma andassero a fanculo, ha fatto bene. O non chi uno, ha fatto 100.000 bene? Volte il carabiniere. Ah, sparare, ha fatto bene, ha fatto bene. Che abbia fatto bene a sparare non c'è dubbio, ma non è che voleva sparargli in testa quello là. Cioè, nel mio mondo ideale li potrebbe pure sparare. Ma chiaramente, ma uno come Parenzo, che cazzo può capire durante l'inseguimento? Ma secondo lui... Non lo decidiamo né io né lei, per fortuna, ma lo decide un tribunale a fronte di un processo, prove, controprove, perizie, controperizie, hai capito? Non lo decide né lei né io, per fortuna. Fermi tutti, ci dobbiamo fermare un'altra volta. La Zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani e Parenzo, facciamo una cosa a tre, vi prego. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... La Zanzara. Crociani, sto preparando una serata scambista a Saigon e mentre parlo col marito dell'altra coppia gli spiego che la mia ragazza vuole farlo in macchina, seduti dietro mentre loro guidano. Lui mi dice, e che problema c'è? Anzi, mia moglie magari si siede con voi, però dobbiamo uscire dai Saigon, perché a Saigon c'è il traffico. Addirittura serate scambiste a Saigon, ragazzi, siamo arrivati pure a questo. Fermi tutti, voglio farvi riascoltare il prete, si chiama Vigorelli, di Mariano Comense, che domenica in un'omelia, la notizia è stata ripresa oggi dalla provincia di Como, ha detto queste parole su Salvini, cioè non è che ve le faccio risentire, oggi ha rilasciato un'intervista in cui ha confermato quello che ha detto, sì, cioè vabbè, l'incompatibilità tra le parole cristiano, essere cristiani e Salvini. Beh, e Salvini. Certo. Cioè un'incompatibilità profonda, cioè la Lega in sostanza dice, poi ha corretto dicendo no, non ho detto che tutti i leghisti non possono... Sì, però non mi pare scandaloso. Diciamo, ma non mi pare scandaloso. Un prete davanti in chiesa, eccetera. Comunque, a me, il Vangelo che, non a me, mi pare compatibile, carità, con il Vangelo secondo Matteo. Scusa, quando c'era padre Coso, ti lo ricordi? Quando c'era, è vivo, per carità, non è morto. Padre, quello di Genova, no? L'amico nostro di Genova, come si chiamava quello là? Don Gallo. No, Don Gallo, l'altro, Farinella. Che sparava a zero su Berlusconi, il primo a dire beh, ma lei è un prete, non può dire, sì, le cose, certo, di Berlusconi. È chiaro che un prete dovrebbe, vabbè, occuparsi, quello augurava di la morte addirittura, tra l'altro, appunto, quindi un prete dovrebbe occuparsi di anime, ma certo, fare un dire che il ma che Salvini... gliene frega di parlare di Salvini e della Lega, un prete parlasse dei preti pedofili e si facesse i cazzi suoi, no dai, su ragazzi. No, ma ti dico, ha constatato che ma il non Vangelo ha constatato un cazzo, dai, su, ma che c'entra la politica? Non è molto compatibile con chi vuole affondare i barconi. Poi, è pieno di gente cattolica che vuole ordine, vuole una, è contro l'immigrazione clandestina, che cazzo vuol dire? Dai, su, non diciamo stupidaggini. Poi ognuno fa i conti con la propria coscienza, con la propria fede, ma non c'entra una mazza, dai. Lei avrebbe detto che o si è cristiani oppure si sta con Salvini. Sì, l'ho detto. Dire o si è cristiani oppure si sta con Salvini è una frase abbastanza forte, effettivamente. Certo. Certo. E lei la... allora? E allora? E allora? Ma io non posso dire sui giornali o le radio o... scusa, venite a messa e ascoltate la parola di Dio. Però conferma che o si è leghisti oppure si è cristiani, in sostanza. Confermo. Ok. Ragazzi, mi sembra chiaro, o si è leghisti o si è cristiani. Posso dire, sinceramente, posso dirla, apprezzo il coraggio e apprezzo il fatto che uno si possa esporre, per carità. Ma insomma, mi pare un cretino questo qua, cioè, mi pare francamente un cretino. Cioè, se uno lo può dire dall'altra parte, quando uno diceva delle cose su... no, cioè, lo deve dire anche in questo caso. Allora, Anna da Napoli, vai, Anna. Buongiorno, buonasera. Dimmi, Cristiani. Io sono... veramente indignata da quello che ha detto o non ha detto, perché non diceva nulla quell'avvocato. Diceva poco, sì, diceva poco. Si deve vergognare. Perché appunto se diceva nulla proprio perché si dovrebbe vergognare. Deve vergognare perché non ha dignità, non ha dignità professionale, non ha una dignità umana. Io Ma, scusi, quello là però fa il difensore della famiglia. Lo deve difendere, però in quel caso lui non parlava cioè lui diceva troppo interessata ai soldi. Quello che veniva, o che non veniva fuori dalla sua personalità. Questa serie di avvocati fatti col timbro che pensano solo ai soldi. Ma quelli vogliono i soldi, lavorano per quella famiglia, siccome il carabiniere è stato condannato, voleva i soldi, vuole i soldi adesso dal carabiniere. 2000 per... Ma c'è modo e modo di dirlo, quello era un modo arido e vergognoso. E non mi è piaciuto David Parenzo, con cui spesso sono d'accordo. Eccoci, buonasera cara signora. Ma era proprio tirato stasera, David. Cosa era tirato, Anna, ciao. Vabbè, non ti è piaciuto? No, è educata, mi piace molto. Queste cose era tirato, cara signora. Era tirato il suo prendere le difese di questo avvocato. No, io ho preso le difese di quello che è avvenuto, cioè del fatto che un avvocato legittimamente difende la famiglia di una persona, ladro per carità, che è morto in una colluttazione a fuoco e la magistratura... scappava e uno gli ha sparato, un carabiniere ha sparato alle gomme della macchina. E la magistratura in primo grado ha ritenuto il carabiniere colpevole. Non è che prendo le difese di nessuno. Ciao Anna, ciao. L'ex sindaco di Bari, cito, scatenato perché pensa che la sua pensione, la chiama così, non vitalizio, sia giusta. In realtà gliel'hanno tolta perché è condannato comunque. Lei sbaglia quando parla di vitalizio, perché il 30 luglio del 2007 ha trasformato il vitalizio in pensione. Quindi non incominciamo a dire stupidaggini. Quindi è la sua, quindi una pensione. È pensione. E che vuol dire? Sempre soldi nostri sono, che siano pensione, vitalizio, che cazzo vuol dire? Cioè, ma dai, su. Se voi pensate che risolve i problemi della nazione, dove c'è la gente che muore di fame, che dorme in mezzo alla strada, pensate di risolvere il problema facendo queste trasmissioni, voi avete capito male. Ex sindaco di Taranto, ovviamente, signor Cito. Che ho detto? Ho detto un'altra città prima, che ho detto? No. Taranto, che ho detto, sì. Andate a calcolare quello che prende l'ex presidente della Repubblica Napolitano, che prende 900.000 euro all'anno. 900.000 euro all'anno. Direttore, io vorrei dare delle risposte. Ed è stata quella persona che ha messo Renzi là, che sta rovinando tutta la gente che vuole andare e deve andare in pensione, e sono loro cosa che dice, governano, di che salvo? Non mandano questa gente in pensione. Sì, ma devo dare delle risposte. Poi a un certo punto impazzisce e se la piglia con Titti di Salvo, che è una ex deputata, è un ex parlamentare, che cazzo ne so, parlamentare, ma non è importante, tanto là chiamano persone a caso, no? Cioè di no, questa qua sicuramente spara contro questo spara contro quest'altro, tutte coppie già pronte, già fatte. Ci vuole la tecnica per farlo, Vorrei dire a Citto che lui non ha più il vitalizio perché è stato condannato, e c'è una regola dell'ufficio di presidenza della Camera che sospende, toglie il vitalizio a chi ha ricevuto una condanna. Io considero sia una cosa molto giusta, molto giusta, molto giusta. Aggiungo che diciamo il suo turpiloquo, la sua mancanza di serenità. Un momento, Cito, abbia pazienza. Lei voleva parlare, l'abbiamo fatta parlare. Non capisce niente. Poi a un certo punto se la piglia pure con Belpietro e dice: se la prendano con Renzi che riempie l'Italia di negri. Senti, riempie l'Italia di negri. Però se la devono prendere con questo campione che abbiamo come Presidente del Consiglio, che invece di pensare alla povertà che sta in Italia, ai pensionati, alle persone che non possono andare in pensione, pensa a far riempire l'Italia di negri, di persone che effettivamente costano 37 euro al giorno. Allora, non è possibile! Ora io dico con tutta... Allora, caro Cito, hai una marea di condanne. Anche per associazione mafiosa, che tu ne dica. perché devi rompere i coglioni sui neri, i negri, gli immigrati? Ma io mi vergognerei di andare in televisione. Ma di che stiamo parlando? Come quelle che c'ha quel signore. Ma no, ma uno può andare in televisione tranquillamente, fa grande battaglia. Ma mi vergognerei, ma sì, va benissimo. Ma non stare a rompere le balle. Semplicemente devi dire: ho preso il vitalizio per una vita, sono stato anche fortunato a prendere il vitalizio per una vita. Adesso, secondo me, anche ingiustamente l'hanno tolto, perché l'hanno tolto solamente alle persone con condanne superiore a 2 anni. Questo è incomprensibile. Addirittura, se uno viene riabilitato, il vitalizio lo può tenere. Follia totale, assoluta. Comunque, te l'hanno tolto. Per una vita ce l'hai avuto, ce l'hai avuto. Stai zitto e porta a casa. Non ti mettere a polemizzare su cose assurde, l'immigrazione. Cosa c'entra l'immigrazione? Cosa c'entra il fatto che la gente sta in mezzo alla strada, come dicevo, a parte che non è vero, che muore di fame, col tuo vitalizio? Ma dai, su. Allora, ragazzi, c'è un signore che si chiama Saverio Mazzarella. Questo signore si autoproclama guardia zoofila. Ecco, va a rompere i coglioni nei circhi, va a rompere il cazzo nei circhi. Cioè, va nei circhi, fa sequestrare dicendo gli animali, dicendo che sono torturati, che sono maltrattati, eccetera. Dopodiché, la maggior parte delle volte questi animali vengono dissequestrati. È andato a rompere i coglioni recentemente, ce l'hanno segnalato, al circo, a uno dei tanti circhi orfei sparsi per l'Italia. Ovviamente dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, animali dissequestrati. Gli animali sono stati sequestrati per le condizioni orribili. Per esempio, può essere chiaro, perché voglio che sentano quelli che allora, ci seguono. Nelle foto che ha pubblicato la stampa è un babuino africano. Ed era detenuto con una cinghia strettissima nella vita, e nella parte posteriore c'erano evidentissimi segni di gravità di salute proprio. Pronto? Saverio Mazzarella? Sì, chi è? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Salve, buonasera. Buonasera, senta, ma lei è una guardia zoofila? Ma perché non mi sta chiamando per sapere questo? No, la sto chiamando perché pare che lei abbia fatto un'azione al circo Orfei, no? Esatto. Sì. Poi però si è risolto in un nulla di fatto, perché alla fine questi animali li hanno dissequestrati, così mi hanno detto, o sbaglio? Il problema ce l'abbiamo in Italia sotto il profilo giuridico, non è certo colpa mia. Ho capito, però lei è entrato lì come guardia zoofila, ha fatto sequestrare gli animali e poi li hanno dissequestrati perché non erano torturati, non erano trattati male, amico mio. Noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione al riguardo. Così mi hanno detto. Quindi. Così l'hanno detto, ma noi non... Scusi, però lei che vuol dire guardia zoofila? In realtà è un privato cittadino. Che significa un privato cittadino? Cioè, non è che esistono le guardie zoofile. E che cosa esistono? No, beh, lei è un privato cittadino che si è inventato il titolo di guardia zoofila. Cioè, non è che esiste la guardia zoofila. Ho capito, me le sono inventate le guardie zoofile. Ma chi allora sono? Deve essere premiato con un Oscar. Ma non lo so, ma non esiste la guardia zoofila. A cioè... che titolo lei va a rompere le scatole della gente che lavora? Questo è un po' il punto fondamentale. Ah, ho capito. Lei è un altro coglione, vuole darmi fastidio. No, che coglione, no, assolutamente. Per carità. Oh, mi hai rotto le palle. Aspetta Saverio. Mamma mia, i ministri di Dio ieri, le guardie zoofile inventate oggi. Mamma mia. Allora, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a chiudere con... Andiamo all'ambasciata americana. Vai tu all'ambasciata americana. Flaviano Monza, vai, Flaviano. Flavia. A passare Flaviano. Questa serata democratica. Sì, sono io. E dai, buonasera. E parla, su. Sì, niente, volevo dire una cosa. Ma speriamo perché bene. Il signor Parenzo sì. non condanna senza se, senza ma... Sì. I furti che commettono certi personaggi. Condanno senza perché? Se senza mai i furti che commettono certi personaggi. Se vuoi lo ripeto. Allora Flaviano non ho capito. Esatto, però condanno così, senza se senza alcune... ma i furti perché? Commessi da chiunque. Allora Flaviano non ho capito. Perciò le conseguenze di queste persone che fanno questi atti, ma sì, possono essere di diversa natura. Sì, giusto. E può succedere. E può succedere che crepano dopo un inseguimento da parte dei carabinieri che vogliono fermarli molto chiaro. Infatti questo è successo, Enrico, e la magistratura ha verificato come sono andate le cose. Enrico, vai. Buonasera. Vai, veloce, vai Enrico, dimmi. Parenzo ogni tanto mi fa veramente girare i coglioni. Sì, io vorrei sapere se lui è contento di vivere in un paese in cui una persona che svolge il proprio lavoro rischia di finire in carcere. Io vorrei sapere lui cosa farebbe se si trovasse nella situazione, cosa che ovviamente non gli auguro, di dover difendere i propri familiari magari da dei malintenzionati con una pistola alla mano. Vorrei sapere cosa farebbe Parenzo. Io intanto non ho il porto d'armi, quindi sì, non... Però questa è una vicenda diversa, che riguarda i carabinieri. Ma questa riguarda i carabinieri. Non c'è ipotesi, l'ipotesi deve essere reale. Non avendo io il porto d'armi, né lo chiederò mai, e quindi non, ma perché dopo non mi va, non per questioni morali, ma perché non me la sento di tenere un'arma. Io chiuderei con una citazione del professor Sgarbi e se ne andiamo a casa, ragazzi. Ci sentiamo domani. Forza Donaldone, forse ce la facciamo, forse no. Non credo, non succede. Ma se succede, Sgarbi è la figa. Mi sono consultato col medico personale di Obama. Sono andato con un aereo privato a mie spese a fare propaganda per il no in America. Ho incontrato di notte Obama e quasi non l'ho visto, e lui mi ha fatto parlare col suo medico personale, il quale mi ha detto che per mantenersi giovani la cosa fondamentale è fare impacchi di fica. Fate impacchi di fica, firmato Obama. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.